Jardins Magnètics, que è un programma settimanale, o sinché. Buonasera a tutti, siamo in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e sta per andare in onda Jardins Magnetics, programma che ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 vi accompagnerà e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, questa era Retribution dei Behind Enemy Lines, ovvero la sigla iniziale di questa trasmissione che è Jardins Magnetics e che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ora, andiamo all'ascolto di un paio di brani per questa band trentina, band che è esistita agli inizi degli anni 2000, che ha fatto alcune uscite autoprodotte su CD e che ora da pochissime settimane, pochi mesi, è tutto uscito su un vinile 12 pollici, ovviamente che raccoglie tutto il loro materiale. Bene, andiamo allora all'ascolto di questi Grandine. Buonasera a tutte e tutti chi ci sta ascoltando, siamo qui agli studi di Via Volturno a Udine in diretta per questa puntata del 28 luglio di Zardins Magnetics, programma che è curato dall'Assemblea Permanente contro Carcere e Repressione di del Friuli di Trieste. Allora, questa sera cominciamo subito con una ospite, diciamo con un contributo, al telefono. Vi presento un po' la situazione di cui andremo a parlare, leggendovi, diciamo, la notizia dal settimanale, dal quindicinale, scusate, anarchico internazionalista Bezmotivny, l'ultimo moicano catturato ad Atene. Il 29 giugno ad Atene è stato arrestato David. Era stato condannato a 6 anni per gli scontri del 15 ottobre 2011 a Roma dalla Cassazione il 25 maggio scorso. Per lui è stato richiesto il mandato d'arresto europeo, MAE, subito dopo la sentenza, attualmente detenuto nel carcere di Korydallos. Il 13 luglio, che è già passato, si terrà la prima udienza davanti al Tribunale greco per la convalida del mandato d'arresto europeo, e poi ci sono i fuoco alle galere, e poi ci sono appunto i riferimenti per scriverli, che magari diremo dopo con calma. Allora, abbiamo in linea una compagna, mi sembra. Sì, c'è già in linea. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. E tutti, e tutti coloro che ci stanno ascoltando, oltre, cioè tranne ovviamente che la Digos, a fanculo. Io mi chiamo appunto Eva, sono la compagna di David Ceccarelli, e niente, come vi ha già raccontato Federico, questo è quello che è successo. Lui si trovava in viaggio ad Atene ed è stato arrestato proprio propositamente, con varie banali scuse, ma era ovvio che volevano andare a, cioè, sapevano già tutto, insomma, sì. Perché sono arrivati a fuoco parlando in italiano, e voglio dire, si era in Grecia con una signorina molto carina lì al momento, con 3-4 energumeni in motorino, con una banalissima scusa, insomma, niente, è stato portato via e bevuto, arrestato, perché non so come si dica in Friuli, comunque bevuto è arrestato. E il suo reato appunto è relativo ai fatti del 15 ottobre 2011 successi a Roma. Gli viene appioppato il reato di devastazione e saccheggio, che peraltro in Grecia non esiste, certo, perché comunque secondo la polizia gli svieti, insomma, un provocatore facinoroso, pericoloso per le forze dell'ordine e per i manifestanti pacifici della giornata dell'indignazione. Sì. Poi vabbè, ovviamente tutte le robe che gli hanno appioppato, pacchi di bancomat, manpower e quant'altro, vabbè, queste sono cose poi specifiche, e comunque tutti i simboli comunque di sta società malata che ormai è al collasso fondamentalmente. Ma certo. Vabbè. E lui adesso appunto si trova in questo carcere di Korydallos di Atene, e c'è stato sì appunto il 13 di luglio questo non processo, adesso non mi viene la parola, comunque udienza, esatto, che è stata rimandata e non sappiamo ancora, cioè l'avvocata greca, che parla italiano e altre lingue, comunque l'italiano lo parla bene, non sa nemmeno lei ancora a quando sia la seconda data. Dopodiché lui potrebbe, cioè David potrebbe decidere di ricorrere in appello anche relativamente a questa udienza, perché in cosa consiste questa udienza? Vogliono, cioè l'Italia se lo vuole riportare a casa, e lui non vuole, perché c'è una sproporzionalità della pena esagerata. Sì. Cioè, sì. Appunto che là in Grecia non esiste devastazione e saccheggio. A parte questo, comunque là cioè, appunto, le pene sono un po' più, fra virgolette, mille virgolette, umane rispetto a quelle che ci sono adesso in Italia. Bon. Ci sono, sì, più, mi dicevi, più possibilità di trascorso, sì, un certo, diciamo, periodo di tempo di trasformarle in pene alternative, diciamo. Esattamente, esattamente. Niente, nella data che dovrebbe essere più o meno fra, perché avevano detto dal 13 ottobre 40 giorni per la seconda udienza, ma questi 40 giorni sono ballerini, non sappiamo ancora esattamente quando. Intanto lei, appunto, questa avvocata, sì, la chiamo così per specificare, per non stare a dire avvocatessa, che non mi piace, no, avvocata, sì, insomma, sì, dico avvocata così capiamo tutti chi è, che è lei, è quella greca, appunto, stop, facciamo veloce. E, perché ha bisogno di tradurre determinate carte, determinate altre sentenze simili a questo caso, mm-hmm, quindi ha bisogno di più tempo. Bom, e questo è quanto. Se hai qualche domanda, Federico? No, dicevi, no, dicevi che c'era la possibilità, appunto, se lui, diciamo, rimanere in Grecia sarebbe... Sarebbe meglio, perché c'è il discorso dei tre quinti. Il suo desiderio sarebbe questo. Mm. Sì, scusami se ti ho interrotto. Dimmi. No, dei tre quinti che mi dicevi, di pena. Sì, è quello che lui mi ha detto, perché poi, allora, loro, cioè, dalla Grecia possono fare queste telefonate, sono molto costose, di conseguenza quando ci si chiama ci sono talmente tante cose da dire, compresse, sì, sì, veloci, sì, sì, e che cambiano da volta a volta, che a volte magari anche io stessa do informazioni non perfettamente corrette, ma perché così mi arrivano, cioè io mi scrivo tutto e cerco di essere più precisa possibile, però può essere che mi sia sfuggito qualcosa, o che non abbia capito qualcosa perfettamente, tutto qua. Certo. E per il fatto di scrivergli, allora la posta lì funziona così, loro, appunto, potendo telefonare, non utilizzano la posta, cioè le lettere scritte, tant'è che David ha avuto un problema perché gli avevano bloccato la posta perché molta gente gli scriveva. Adesso è stata sbloccata, di conseguenza se qualcuno gli volesse scrivere, ma anche solo due righe, ciao, certo, come stai, certo, tanto dall'Italia, se mandi un foglio è il francobollo basico da 1,20 euro. Sì, sì, quello è normale, sì, quello. Sì, sì, sì. E l'indirizzo io non ve lo so leggere in greco, quindi è meglio rimandare. Sì, sì, sì, chi vuole, insomma, lo trova, sì, se lo, sì, trascrive, esatto, dai siti, diciamo, dal web. Esatto. Io personalmente l'ho scritto sia in alfabeto latino, cioè occidentale latino, che in alfabeto, sì, sì, greco, per non saperne meglio leggere né scrivere. Sì, sì, meglio, non si sa mai. Sì, perché sai, lì se ti possono osteggiare in qualsiasi in modo, modi, fidati, sì, che lo fanno. Sì. Ecco. Va bene, allora dai, io mi pare che un po' abbiamo presentato. Io magari adesso, dopo che ci salutiamo, dico ancora un paio di cose su questo, sì, su questo, certo, reato di devastazione e saccheggio, che non è nient'altro che, cioè, una... È proprio uno di quei reati. Sì, un rimasuglio del codice Roma. Ma ancora prima, proprio dall'Ottocento, perché sarebbe il reato base, il furto e danneggiamento, e poi loro aumentano spropositamente, diciamo, la pena, mettendo però questo discorso del concorso morale, che se tu eri lì presente a 2 metri di distanza e non hai detto niente, per esempio, anche con questo, esatto, no? Anche quello. Ma guarda, Federico, cioè, se io da, che ne so, ubriaca fossi andata a spaccare, cioè se io adesso esco, mi bevo una bottiglia di whisky e da ubriaca sfondo una vetrina e ho un bancomat, mi danno danneggiamento, esatto, cosa ti daranno? Esatto. Cioè, sì, quello così. Che è, sì, è una molto basso, lì è 15 anni, dai, 15 anni in su. Che, cioè, è una roba che non ha senso, quello che è da sì, è una roba punitiva, cioè, contro chi, insomma, turba, sì, loro... È nata e cresciuta per questo, ovviamente. La pace sociale, tutti, sì, e, sì. E lo stanno mettendo, lo stanno... appioppando veramente sempre di più possibile dove possono lo inseriscono, e non è una cosa molto carina, insomma, no. Comunque, proprio no, dai, no, direi di tanto, no, intanto gli mandiamo anche tramite di te tutti i nostri saluti, insomma, certo, abbracci. Gli ho già scritto una lettera dicendo, cioè, dicendogli che avrei fatto questo intervento, il nome della radio, non credo che lui potrà in qualche modo risalire, però so che ci sono i podcast, sì, magari infatti. In qualche modo poi faremo girare, speriamo, sì, in qualche modo lo possa, se ha voglia, ascoltarlo, penso gli faccia piacere, gliel'avevo comunque già preannunciato, va bene. Ma, e poi oltre a ringraziarti, insomma, se ci sono, cioè, ci saranno altre, diciamo, aggiornamenti, sicuramente, ecco, ci sentiremo ancora, no? Certo, Federico, certo, grazie mille a tutti voi della radio, grazie mille per l'interessamento, grazie a chi ci sta a chi vi sta ascoltando, e un abbraccio e buona serata. Grazie a te, ci sentiamo. Grazie, ciao. Ecco, di nuovo in diretta, poi annunceremo magari i brani che sono andati nel frattempo di musica, e niente, volevo solo aggiungere un paio di cose sul discorso che abbiamo fatto con la compagna, Cioè, l'articolo, sì, si parlava dell'articolo 419, no, del codice penale, devastazione e saccheggio. Questo discorso qua della devastazione e saccheggio, come io adesso ho cercato di così accennare, è una, uno di quei reati dormienti del codice penale. Cioè, a dire, lì proprio si vede il discorso anarchico, che diciamo la critica del dominio, che è fondata, perché è un tipo di reato che sorge al sorgere degli stati moderni, cioè già dal 1830 col codice penale del Regno di Sardegna era già diciamo articolato, poi è stato, cioè, passato direttamente nel codice Rocco, nell'altro diciamo statuto, quello unitario sotto i Savoia, poi nel 1930 col codice Rocco di fascista, dove hanno distinto anche l'attacco all'ordine dello Stato o l'attacco all'ordine pubblico. Per l'attacco all'ordine dello Stato era prevista la pena di morte, ed è rimasta anche nel nostro codice repubblicano, solo che hanno solo diciamo traslato nell'ergastolo invece che nella pena di morte, mentre per l'ordine pubblico appunto sono previste queste pene esorbitanti. Come si diceva, il reato base è configurabile come furto e danneggiamento, cioè la devastazione equivale al furto, il danneggiamento equivale, e il saccheggio equivale al danneggiamento, solo che siccome c'è una, diciamo, cornice di scontro di piazza in questi atti, diciamo, la controparte, le autorità giudiziarie, eccetera, le procure esercitano praticamente in tutti i modi dialettici possibili per configurare con termini generici, con valutazioni, con anche parole evocative, per articolare appunto le condotte che sono sempre quelle appunto del furto e del danneggiamento, dove si diceva prima le pene sono abbastanza basse, diciamo, adesso io vado a memoria, ma sarà da 1 a 3 anni, cose del genere, mentre invece appunto qui si parte subito dai 7 in su fino a 15, e poi appunto per attacco all'ordine dello Stato c'è anche l'ergastolo. E appunto è dormiente perché appunto sono partite queste, è tutto un discorso che parte da Genova, dal G8 di Genova o da lì intorno, hanno cominciato a fare queste campagne di criminalizzazione mediatica cioè hanno portato avanti la criminalizzazione mediatica sugli ultras, quelli diciamo che appunto sono sempre bersaglio comunque sistematico di legnate da parte della Celere, e hanno appunto diciamo articolato meglio questo reato di devastazione e saccheggio, e hanno cominciato a introdurre il concorso in questi reati, e tramite questo concorso poi l'hanno spostato, era solo appunto la trampolino di lancio, diciamo, per portarlo nei reati politici, quello che loro interessava, no? E quindi il primo momento, diciamo, dove è stato laboratorio questo messo insomma in pratica questo reato, è stato negli scontri a Milano del marzo 2006 in corso Buenos Aires, dove erano durati pochissimo, insomma 1-2 ore, adesso non mi ricordo sinceramente, e l'entità dei danni comunque era contenuta, solo che da quello che mi ricordo io era stata una situazione dove si era poco, diciamo, si era definita in maniera un po' così scivolosa il controllo della piazza, e quindi dei compagni al momento delle cariche sono rimasti indietro, e loro li hanno tutti catturati, e 18 sono stati appunto militanti, sono stati condannati per devastazione e saccheggio con appunto queste pene mostruose qui di 6, 7, 8 anni, è definitivo in tutti i tre gradi di giudizio nel frattempo. Poi nel frattempo sono andati a applicare questa pena anche per alcuni militanti del G8 di Genova, e infine appunto si arriva a Piazza San Giovanni, Roma. Erano appunto gli indignados in quel frangente lì, c'era una manifestazione appunto di massa e erano avvenuti gli scontri di piazza, e appunto lì è stato proprio in maniera spregiudicata applicato questo principio per cui essere presenti equivaleva a aver commesso il reato. Ma al di là di questa roba qua, del discorso di aver inglobato dentro persone in maniera indiscriminata, rimane il fatto che questo reato, il discorso importante secondo noi è che implica una concezione autoritaria del diritto, perché appunto etichetta forme di lotta e di dissenso già in partenza come incompatibili col quieto vivere, quindi tutta una roba assolutamente senza nessuna base, diciamo, di prove di questi reati. Al di là di tutto, ma anche per un discorso di principio, non è che vengono recuperati cioè al di là del fatto che uno spacca una vetrina, non è che perché era in presenza di altri allora lui ha turbato il quieto vivere, è un giudizio di valore questo qua, no? Per quello è una roba autoritaria assolutamente, che va conosciuta e contro cui bisogna lottare. Potrei, ecco, dire di mandare ancora un po' di musica. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band di Milano al loro esordio discografico, proprio un'uscita recentissima, addirittura su album, su un intero LP. Loro sono i Tenia e questo è il loro disco che si intitola Altrove, e che comunque abbiamo anche ascoltato prima durante l'intervento e anche all'inizio dell'intervento. Quindi ci ascoltiamo ancora un brano per questi milanesi Tenia. Allora, ritorniamo con la voce e per questa siamo sempre in diretta qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Siamo il giovedì 28 luglio, sono appunto le 8:15 e andiamo adesso, passiamo a un altro tema. Diamo un aggiornamento su quelle che sono il percorso di lotta del coordinamento No Green Pass di Trieste, che appunto ieri, che era mercoledì 27, ha promosso un presidio, una presenza in Piazza della Borsa a Trieste, dove appunto si è intervenuti su una questione che adesso vi vado a presentare. Faccio un inciso, abbiamo insomma siamo riusciti ad ascoltare un compagno che era presente lì, un compagno che tra l'altro conoscete perché è intervenuto più volte ed è anche lui componente dell'assemblea e contro il carcere, ma su Trieste insomma opera anche come appunto nel coordinamento No Green Pass, e ci spiegherà nel merito la questione che adesso, se avete pazienza un attimo, vi vado a presentare. Volevo solo fare questo inciso che io appunto l'ho ascoltato e ho registrato la telefonata, se non che le mie domande non sono imbranato e non sono riuscito a catturarle, mentre invece il suo audio è quasi insomma tutto integro, se non che si interrompe bruscamente, ma insomma vi preavviso così appunto siete preparati. Dicevo, questo presidio che appunto sul retro del volantino c'era niente immunità per chi lavora per l'umanità, l'argomento, il tema è questa trapelata, questa notizia in merito alla ratifica da parte del governo italiano di un accordo tra lo Stato e gli CGEB, ovvero Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica Biotecnologica, un'emanazione del, diciamo, delle, un'entità che fa riferimento alle Nazioni Unite, che ha un sito a, nell'area Science Park di Padriciano, cioè sul Carso, sopra Trieste, e in quel sito lì, oltre ad altri dispense e privilegi, è prevista per gli operatori l'immunità, ovvero la non punibilità in sede legale, da parte insomma, del governo. E su questa questione, appunto, che adesso ci spiegherà bene il compagno, che manderemo l'audio, è stato fatto un presidio ieri sera. Possiamo andare con il testo, insomma con l'audio. Ma il presidio è stato organizzato dal, intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. Il presidio è stato organizzato dal coordinamento No Green Pass di Trieste e parte da la questione che hai detto tu, cioè il fatto che con legge dello Stato in sostanza è stata data anche con questa fonte, oltre a un accordo già in vigore, oltre al diritto internazionale, che riguarda un centro comunque appannaggio dell'ONU, che rientra nelle istituzioni ONU, è stata data una immunità insomma esplicita a questo centro. E la questione, insomma, abbiamo ricevuto delle critiche, abbiamo anche dibattuto piuttosto fortemente al nostro interno come coordinamento No Green Pass e sulla proprio su questo punto qua, a partire da questo punto qua, poi insomma è prevalsa l'idea che sia qualcosa di particolare per cui lo Stato italiano scelga addirittura di rendere esplicito con una legge una cosa che dovrebbe esserci già in base a un accordo e de facto, però ci è sembrato strano e ci è sembrato per certi versi provocatorio, perché insomma veniamo da una fase e la stiamo ancora attraversando in larga parte, una fase in cui insomma abbiamo vissuto una pressione di controllo e di repressione anche sulle nostre vite, derivata da un'emergenza sanitaria, o insomma così è stata posta, così è stata descritta, un'emergenza sanitaria che è generata da un virus e la cui origine tuttora non è chiara, anche se le notizie rimbalzano quasi di settimana in settimana. L'ultima, ho sentito, hanno ribadito questa storia del mercato di animali a Wuhan, però un'origine che potrebbe riguardare anche sperimentazione biotecnologica, tecnoscientifica, in particolare nel laboratorio di sito a Wuhan, dove il virus è stato per la prima volta insomma scoperto tra virgolette. E poi ci sono stati casi nella polemica tra Cina e Stati Uniti della base militare statunitense di Fort Detrick, ultimamente i casi dei laboratori in biotecnologici in Ucraina che sono venuti al mondo dopo l'invasione russa e quindi ci sembrava così provocatorio il fatto che dopo tutto questo si ribadisse addirittura un'immunità specifica per questi centri. E poi il discorso più generale, insomma, che è dentro questo, che il coordinamento No Green Pass ha portato avanti comunque, che è quello della critica allo scientismo, cioè a un'ideologia per cui la scienza dentro questo sistema, la scienza viene presentata come un bene assoluto, e come un bene assoluto indiscutibile, che riesce quindi può essere utilizzata anche come abbiamo visto in quest'epoca di cosiddetta pandemia o di sindemia, più correttamente secondo me chiamarla così, che viene utilizzata come fonte del diritto, come fonte quindi di controllo, repressione, ricatto, pensiamo al Green Pass rispetto al lavoro, e dunque... E ci sembrava perfettamente in continuità, in coerenza col percorso di mobilitazione, di lotta che ha fatto il coordinamento No Green Pass, essere in piazza anche su questa questione. D'altronde, insomma, fra i nostri accusatori a Trieste c'è stato il mondo scientifico, gli scienziati, eccetera, e ci è stato ribadito che noi eravamo la parte della città ignorante, che non si voleva vaccinare, che non credeva nel codice QR come strumento di prevenzione sanitaria, che eravamo terapeutisti, tutte queste accuse qua che ci hanno fatto in questi mesi. E qui, insomma, ed era importante secondo noi, come dire, ribadire di fronte a questo atto legislativo, le nostre idee, invece il totale fallimento dello Stato rispetto alla gestione del Covid e il suo utilizzo invece per mettere in campo meccanismi di profitto, di controllo, che insomma, purtroppo abbiamo ben visto. Ecco. E questo era un po'. Poi c'è ovviamente una parte di noi non crede alla tutela che lo Stato può dare rispetto anche a esperimenti scientifici pericolosi, non crede a una dimensione bioetica, chiamiamola così, definita da questo Stato. Insomma, ci sono tanti discorsi dietro, c'è il fatto che pesano interessi privati, tra cui la Bill Gates Foundation, che collabora ufficialmente con l'ICGB, e dunque i discorsi sono comunque vari anche all'interno del coordinamento. Ieri ne è uscita comunque un'iniziativa ricca, ecco, in piazza, ricca di contenuti sicuramente. Ecco, poi appunto io facevo un'altra domanda rispetto al proseguimento della lotta del coordinamento No Green Pass, anche se le misure, diciamo, le misure autoritarie, il discorso del ricatto sul lavoro in questo momento è per il momento sospeso, come è possibile proseguire, anche come c'è cioè, il discorso poi importante di far emergere in questa iniziativa di ieri sera la dualità, no, dell'attività scientifica, di ricerca scientifica, e per cui possiamo mandare l'ultimo pezzettino, che è molto breve. Sì, c'è l'obbligo che vige ancora per i sanitari, purtroppo, dell'obbligo vaccinale, non l'obbligo di Green Pass, ma l'obbligo vaccinale c'è, ed è una cosa pesantissima, in silenzio anche, e c'è l'obbligo per tutte le professioni che sono in qualche maniera anche forzatamente equiparate ai sanitari. Ci sono ancora pesanti restrizioni per le visite a parenti rinchiusi in ospizi o in ospedali, e non c'è l'obbligo di mascherina, insomma le cose non sono sicuramente passate perché ci parla di quante dosi, eccetera, però insomma, ci parla di certificati digitali di vari tipi, di sistemi di credito sociale, eccetera, eccetera. Certo, siamo a un'attenuazione, vedremo, insomma, chiaro che la questione oggi, come è stato ribadito anche ieri al presidio, che tutte queste misure poi confluiscono, insomma, contribuiscono anche a un clima di guerra e di repressione, di guerra. Scusatemi, niente, no, si conclude così l'intervista, e poi c'erano i saluti, appunto, però come vi dicevo per imbranataggine tecnica un po' pasticciato, quindi vi porto i saluti del compagno da Trieste, e così adesso credo che possiamo andare con qualche minuto, insomma, di musica. Ecco, e intanto volevo dire di questa musica che stiamo ascoltando, che a parte che purtroppo non saprei dirvi il nome della band che sta suonando, perché è una compilation, sono più le band all'interno di questa appunto compilation, che si chiama Devastate to Liberate, che era uscita dove sono intervenuti varie band del movimento anarcho-punk inglese nel 1985, per quello che poi divenne l'ALF, ovvero l'Animal Liberation Front. Comunque, all'interno di questa compilation ci sono più band, tra cui Current 93, Annie Anxiety, addirittura i Cress e tante altre che, come vi ho detto, così per questioni tecniche in diretta qui non saprei dirvi, da questo comunque vinile formato 12 You got the nice, so wait a sunshine. Exclusion zone at the new star around the fourth can be seen from into the resurrection with all the saints. Blind the bodies of these are brothers. Tonight for Child's Play. After an all-out attack, how much of that complex world you now take for granted would still be there? It is purely a special case for the sixth duty shillings above what the present offered me, on condition that the rest of the workers sanitation take less. Water supply. We don't think this would be the wish of the workers. The rest of the union. High technology medicine. Wish to think that we would fail. And the basis doctors. When they come out of the pockets of other electricity. Just as hard hit. But remind us of that. What kind of communications? Right by day. Would the social fabric still be there? Now you're looking right. Soft skin, healthy glow. Would anything? South America and Central America is littered with territorial disputes. And many of them will know if one country succeeds in getting territory by invasion, there'll be a lot of invasions on border territories in South America and possibly in Central America too. I mean, we have one. We have a garrison in Belize still. That garrison is kept in Belize, even though Belize is now independent in case of invasion. Oh, Recruited by the regiment's colonel, the Prince of Wales. He insisted on rising early on his first wedding anniversary to greet each man personally as the battalion flew in on four separate transports from Ascension. Changing quickly, but between flights, the prince took the opportunity to walk down the lines of relatives for whom the past 2.5 months has been spent in anxious waiting. Very serious. But despite all the elation, there was more than a tinge of sadness. The 36 members of the 1st Battalion did not return. A flying to meet the trees by Chukchi Rifle. Eccoci di nuovo con le parole e siamo sempre in diretta per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 28 luglio, sono le 9:10 circa della sera. Per questo ultimo, diciamo, tema che volevo così far emergere stasera, in realtà io pensavo, cioè, se ne poteva parlare anche l'altro giovedì, solo che ho detto aspettiamo che passi questa roba e con la calma ne parliamo. Invece è tornata fuori ieri il discorso dell'incendio, degli incendi che ci sono in questo momento nei dintorni qui del Friuli e sul Carso. Allora, io volevo partire un po' dai contributi che erano stati pubblicati in questi scorsi negli scorsi mesi dai compagni anticapitalisti e così anarchici della Sardegna. E in particolare era un articolo sul quarto numero del, diciamo, di questa pubblicazione che si chiama Nkat Murigu, è appunto un breve articolo un po' più, diciamo, critico. Invece su quell'altra pubblicazione che si chiama Nur Kuntra, periodico di storie, lotte, conflitti, prospettive anticapitaliste in Sardegna e oltre, era un discorso un po' più, diciamo, informativo, comunicativo. Era un'intervista in particolare a due cacciatori, cerchiamo di poi vedere se riusciamo a leggere qualche pezzo di quelle due interviste. Nel frattempo io, tra parentesi, vorrei capire se si riesce a mandare anche un po' di sottofondo musicale mentre parlo. Volevo appunto partire dal discorso che, come al solito, c'è questa menata, questa baggianata di dire che gli incendi sono dolosi. Allora, come se non esistessero le previsioni meteo, la notizia del cambiamento climatico. Non esistesse una notizia che questa annata è completamente balorda e di siccità e di carestia. Se non esistesse la globalizzazione, faremo qui, non è detto che non la faremo, faremo la fame. Non è mai piovuto quest'anno seriamente, quindi chiunque, cioè, non è che ci vuole un cervellone elettronico per arrivare a pensare che a luglio, l'ultima due settimane di luglio, può essere che capitano i 35 gradi e oltre, e quando ci sono queste condizioni qui fisiche, della fisica naturale, che la natura trova appunto trova materiali combustibili per far partire un incendio. Non è che appunto ci sono questi perché se fossero piromani, se esistessero questi problemi, diciamo disturbi del comportamento, allora dovrebbe esserci l'incendio anche il mese di novembre, o di quando c'è la bora, anche novembre, oppure Natale o Capodanno, capitano anche lì annate siccitose, ma semplicemente se c'è un piromane sa dove andare a piccare un fuoco, sa dove trovare la cose combustibili, fa scoppiare un incendio, no? Non sta in piedi sto discorso del piromane. Altra cosa, altra leggenda metropolitana che viene fuori di solito, che fa ridere se non fosse drammatica, anzi tragica la situazione di gente che viene sgomberata da casa sua perché sta arrivando l'incendio, farebbe ridere il discorso che ci sono sempre misteriose speculazioni immobiliari eccetera, insomma simili, cose di questo genere, e ripeterla, far campagne mediatiche, tirar fuori ste pregnacce anche da parte di sindaci, il sindaco di Gorizia che è venuto fuori a dire che le autorità slovene devono vigilare meglio sui piromani, queste boiate qua, tutto per quale motivo? Perché se uno questo qui è il copione che viene allestito, perché altrimenti diversamente si farebbe attenzione al fatto che di qualcuno le responsabilità se scoppia un incendio sono, cioè di quelli che sono appunto le autorità, cioè di quelli che non hanno provveduto a fare la prevenzione e preferiscono la cura, diciamo, sul momento, quando l'incendio è già scoppiato, e quindi non si sono occupati di far pulire il sottobosco, non si sono occupati di far tenere in ordine le strisce tagliafuoco nei vari appezzamenti, di creare invasi e tenerli anche quelli funzionanti, di organizzare i volontari non all'ultimo momento del mese di luglio, che la gente c'ha il lavoro, c'ha le ferie e, insomma, normalmente non è semplice organizzarli i turni il mese di luglio. Quindi si arriva addirittura a parlare di sfortuna come se fosse una roba fatalismo, che non nessuno sa, nessuno guarda le previsioni meteo, che chiunque adesso apre il suo telefono con l'internet e compulsa il meteo ogni giorno, se non più volte al giorno. Siamo arrivati a questo punto. Sul discorso dei Canadair, anche là ci sono, cioè non è vero che il governo italiano non ha i mezzi per intervenire sugli incendi. L'Italia ha una flotta di 19 Canadair, su 20 regioni, vuol dire sicuramente un aereo riservato a ogni regione. E quindi una delle flotte più meglio organizzate, insomma, di questa parte del mondo. Il discorso è che il governo non rende disponibile questi mezzi direttamente alle regioni, ma li prende dai privati e li affitta ai privati, e vengono a costare anche 30.000, hanno un costo di 30.000 euro all'ora. Poi appunto dicevamo che si opera sull'emergenza, invece ad esempio se si guarda fuori dall'Italia come operano le strutture preposte a risolvere questi problemi in Corsica, ci sono gli aerei che normalmente nelle giornate di allerta meteo, di allerta per il caldo, vengono già mandati in volo e intervengono in tempo reale, individuando sul momento già i piccoli, cioè i dove sono le, diciamo, i focolai, e quindi si interviene immediatamente, non che bisogna prima aspettare che scoppia il focolaio, poi chiamare lo stato centrale, aspettare che arrivi il Canadair, possono passare anche 6-7 ore, nel frattempo l'incendio è andato avanti, eccetera, eccetera. Beh, questo qua era l'introduzione, ecco, al discorso, quindi non esistono questi discorsi degli incendi dolosi, anche se esistesse sarebbe, cioè, fa ridere poi che come fa a scoppiare in questo momento, per dire, anche a Udine, io sento l'odore di bruciato, perché evidentemente arriva il fumo anche da Taipana, da su, da qui, dalle prealpi più vicine. Non solo appunto Resia è distante, ma le prealpi qua può capitare che arrivi l'odore di fumo. Poi ce n'è stato anche nella zona, insomma, nel Cividalese, nella zona del Friuli occidentale, sul Monterra, cioè ne sono scoppiati ovunque, quindi non sta né in cielo né in terra questo discorso qua. Allora, prima di, siamo agli sgoccioli, no? L'ultima cosa che volevo di cui vi volevo parlare era, quindi, cosa si fa, no? Cioè, perché il discorso il discorso che vi ho fatto adesso è il discorso che fa lo Stato. Noi cosa possiamo fare? Cioè, cominciare, ovviamente ormai adesso è tardi per intervenire, ma cominciare a la mentalità a provare a trovare quali sono le, diciamo, le, un sistema diverso di approcciarci a questa emergenza, no? Allora, vi dicevo di questo interessante botta e risposta qua che hanno fatto i compagni qui sardi con due cacciatori che appunto con i quali io personalmente qui cacciatori non vorrei averci a che fare, però è un discorso che viene fatto appunto a partire dal, diciamo, un discorso di base, senza stare a fare valutazioni su chi sia davanti. Allora, ci racconta, ah sì, no, volevo ancora dire che si riferisce agli incendi che sono scoppiati nel luglio 2021. C'è stato un grande incendio in una zona che si chiama Montiferru, che è una subregione della Sardegna, nella provincia di Oristano, e praticamente se guardate la Sardegna è al centro, è verso, insomma, la costa occidentale, ed è un massiccio di origine vulcanica, particolare, insomma, anche perché non è siccitoso, lì ci sono molte precipitazioni perché arriva insomma arriva il Mistral e si carica nel frattempo, il Mistral direttamente dalla Provenza, ma nel frattempo si carica di umidità, e quindi capita spesso che sia la pioggia sia anche d'inverno anche la neve in questa zona. Nonostante questo, appunto, un anno fa è scoppiato un grande incendio che ha devastato oltre 20.000 ettari di boschi e pascoli, perché tra l'altro, insomma, la Sardegna è molto diverso dal Friuli, esistono i pascoli, esiste l'allevamento brado. Dunque, la domanda è: ci raccontate dei giorni dell'incendio? C1, cacciatore 1. La prima notte, quando l'incendio era al confine tra Seneghe e Bonarcado, nella zona degli Uliveti, c'è stato un passaparola via social e telefono da parte di chi aveva il bestiame in quella zona, risultando in un intervento di persone recuperate la stessa notte, allevatori e amici, tra mezzanotte e l'una. Mentre il secondo giorno, quando il fuoco è arrivato nella zona alta del monte, tra Seneghe e Santu Lussurgiu, è stato dato un bando per ben due volte dagli altoparlanti del comune, e poi sempre via social e messaggi da persone già sul posto che mandavano informazioni. Alcuni si sono occupati della comunicazione riguardante alcune zone che potevano risultare pericolose in caso di cambio di direzione del vento. Il bando del comune informava che chiunque fosse disponibile avrebbe potuto recarsi al monte con delle botti d'acqua. Al pomeriggio ci si è organizzati al meglio, chi portava un po' d'acqua, chi come me insieme ad altri e un operaio comunale ci si è attivati per fare una sorta di bonifica in un prato di 3 km con motoseghe, acqua, badili eccetera eccetera. Gli elicotteri dell'antincendio della forestale si rifornivano nelle vasche nel monte che a loro volta venivano rifornite dai volontari di Seneghe e di Santu Lussurgiu. Quando il fuoco ha sorpassato Cuglieri e si dirigeva verso Porto Alabe, c'è stata una ripresa a Santu Lussurgiu, verso Bau e Mela. Esso, spinto dal vento, ha sfiorato il confine con Seneghe. I lanci e l'opera delle persone sono riusciti a bloccare e bonificare il monte. C2, cacciatore 2. Un incendio così è una questione di fortuna, a seconda di come gira il vento. Sarebbe stato ingestibile anche dai Canadair. L'opera dei volontari a terra, però, è stata fondamentale per lo spegnimento dei principi di incendio. La gente si è un po' affidata a voi che avete conoscenza del monte essendo cacciatore, oppure si è mossa anche in autonomia. Diciamo che bene o male chi avendo più personalità o conoscenza del monte si imponeva facilmente, anche perché c'erano persone che non sapevano da che parte girarsi e per cui era la prima esperienza di questo tipo, avere una persona che diceva facciamo questo, questo e quest'altro, dava una sorta di sicurezza e ci si aggregava tranquillamente a prescindere da chi aveva esperienze o lavorative o di eventi simili. Tutti gli altri chi erano? Donne e uomini? C1. I volontari erano tutti uomini, donne sinceramente io non ne ho visto. Allevatori, pastori, sul posto c'era di tutto, anche ragazzi giovani, studenti. Le persone dei dintorni, Santu Lussurgiu, Bonarcado, Narbolia, Milis, soprattutto portavano acqua e cisterne, chiedevano come potevano aiutarci. C'erano anche la cooperativa dei pastori, moltissimi muratori e lavoratori della ristorazione. C2, c'era molta partecipazione. Il lavoro che si faceva quindi, in cosa consisteva? Erano pratiche facili da trasmettere? C1. La prima notte hanno lavorato con frasche, acqua e con quelle pompe che si usano per trattare gli ulivetti con delle piccole lance. Erano lì tutta la notte e hanno bloccato e bonificato la zona. Spegnevano fisicamente le fiamme battendo con le frasche sul fuoco e poi bonificando con secchi d'acqua dove ci sono le ceppaie. Era zona di pascolo, quindi non c'era bisogno di scavare come invece su al monte, tranne in alcuni punti di bosco e in qualche ulivetto dove hanno continuato per alcuni giorni. Le pratiche erano facilissime. Noi eravamo più di 20 persone, tutti disponibilissimi e abbiamo lavorato benissimo. Abbiamo fatto più di 3 km. È una pratica che non è che si usi più di tanto. Prima l'assenza dei mezzi aerei e di acqua ti costringeva a fare un lavoro di questo tipo, mentre ora con gli elicotteri e altri mezzi c'è meno necessità. C'era però una sorta di disorganizzazione, ma non da una mancanza di volontà, ma dall'incapacità di molte persone di sapere cosa fare. Faccio l'esempio di mio figlio, ha 18 anni, è venuto con me e gli ho detto di starmi dietro. Non aveva mai visto un incendio, anche se il bosco lo conosce benissimo. Viene a caccia con noi ed è abituato ad andare in campagna. Però un conto è andare a funghi, un conto è presentarsi in una situazione di pericolo come quella. Quindi di alcune semplici nozioni che per me e per altri sono elementari, altre persone non avevano la minima idea, non avendo mai visto un incendio. La prima cosa che ho detto a 20 persone è stata di metterci tutti in fila indiana, chi taglia, chi lavora con quest'altra cosa, nessuno si discosti dalla linea del fuoco, nel senso che lavoriamo dal bruciato verso quello che non è bruciato. Qualsiasi problema succeda, uno non deve scappare nella parte che non è bruciata, ma rifugiarsi all'interno del bruciato per 5-10 metri. C2. L'idea è sempre quella di scappare dove il fuoco non è andato, invece è sbagliatissimo. C1. Quando vivi certe realtà, c'è la conoscenza del territorio. Prima c'era un fuoco, se c'era un fuoco andavamo tutti ad aiutare, non c'erano le istituzioni di adesso, quindi anche i ragazzini a 14-15 anni iniziavano andare un po' per la curiosità, un po' ti dai da fare, alla fine un minimo di esperienza ce l'hai, anche perché gli anziani ti dicevano non fare così, non fare cos'è, mentre adesso non è così. La buona C2, la buona volontà c'era, la mancanza era nel coordinamento, non erano tutti i vigili del fuoco o allevatori esperti, la maggioranza delle persone aveva la volontà di aiutare e con qualche esperto ci siamo organizzati, C1, ognuno si seguiva la sua linea e poi si tornava per vedere se il fuoco covava sotto, se c'erano rocce, tutto un lavoro è stato fatto, viaggiava sotto le radici anche a distanza di giorni, eccetera, poi continua. L'intervista è interessante, però è interessante anche comprare, diciamo, questa rivista che trovate, diciamo, ce l'abbiamo anche noi, ce la potete richiedere, si chiama Nur Kuntra. Appunto, dopo parla appunto del discorso di come erano le cose quando questi due cacciatori erano, insomma, avevano 20 anni, cioè erano giovani, nell'83 c'è stato questo altri grandi incendi e spiegano, insomma, tutta la differenza che c'era quella volta, che era più seguito il territorio, eccetera, insomma, era più anche paradossalmente più semplice seguire, insomma, fronteggiare un'emergenza simile rispetto adesso, dove ci si affida completamente alla tecnologia, ai droni e quant'altro, queste diavolerie. Io direi che per stasera può bastare, vi lascio alla regia che vi darà i contatti e vi saluto, grazie di essere stati in ascolto. Bene, stiamo ascoltando in sottofondo, abbiamo ascoltato anche appunto durante l'intervento questa band comasca, in Zona d'Ombra, da questo loro album Guerra all'Apatia. Ricordo che questo programma è Zardins Magnetics, in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, e appunto che dura, cioè il programma va avanti fino alle 21.30, ovvero fino adesso. Quindi siamo velocissimi. Vi ricordo i nostri contatti, chi volesse scrivere tramite posta elettronica può farlo tramite la mail liberetutti@autistica.org, oppure tramite forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Poi può anche riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte le precedenti, tramite zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Inoltre ricordo che siamo anche su Telegram, basta intestare a t.me/zardins. Bene, siamo giunti al termine, l'appuntamento è per il prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica qui da Radio Onde Furlane. Vi lascio con questo ultimo brano di una storica band dell'hardcore punk inglese, dal loro album di esordio, che era Leader, Bristles, Toots and Acne. Loro erano i GBH, e questo, appunto, come ho detto, il primo EP che fecero nel 1981. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.